si tao bia di malam di tande di wawo ne non gale tene ma non gale tene ne nata no na mo na menga nende wa na oke mi son di malam di utiti yeah. Hmm.